Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Partiamo dal premio Sakharov. Il premio Sakharov per la libertà di pensiero è stato assegnato a Malala Yousafzai, l'adolescente pakistana sfuggita per miracolo nel 2012 a un attentato dei talebani che volevano impedirle di andare a scuola. Curioso, proprio poco fa una nota dal Pakistan, firmato appunto talebani, che dicono non c'è nessuna ragione per la quale la ragazza ha meritato questo premio. Probabilmente sta proprio in questa la lettura della decisione del Parlamento europeo. Lo ricordo, il premio Sakharov viene assegnato dal 98 e destinato a personalità o organizzazioni che abbiano dedicato la loro vita alla difesa dei diritti umani e delle libertà individuali. Piazza Affari continua a guidare il rimbalzo delle borse in Europa. L'indice guida di Milano guadagna l'1,84%, sostenuto dai bancari, bene anche Londra, Parigi e Francoforte. Questo dunque il quadro della mattinata la mattinata di borsa europea all'insegna del segno più. E ora alla Siria. Michel Barnier ne ha parlato ieri alla plenaria del Parlamento a nome della commissaria per gli affari interni Cecilia Malmström, che era invece a Lampedusa. Ha affrontato in quella circostanza il tema dei profughi siriani, rilanciando la stima dell'ONU che parla di 3 milioni e mezzo di rifugiati tra Libano, Giordania, Turchia e Iraq. Ha detto Barnier: dobbiamo attenderci un flusso ancora più massiccio. Così il Parlamento europeo ha dunque approvato a maggioranza una risoluzione in cui chiede l'organizzazione di una conferenza umanitaria intergovernativa che decida il da farsi. Saranno 3 milioni e mezzo, stima l'ONU, i rifugiati in uscita dalla Siria entro la fine del 2013. E allora come gestirli? Cosa fare? Quanti aiuti e come distribuirli? Di tutto questo si occuperà la conferenza umanitaria intergovernativa che l'Unione Europea dovrebbe convocare in base a una risoluzione approvata ieri dal Parlamento UE e che qualcuno vorrebbe a Lampedusa. Bene, commenta il capogruppo dei Liberali Democratici Guy Verhofstadt, ma non basta. Anzi, l'ex premier belga ammonisce: finora il modo in cui l'Europa ha affrontato la situazione in Siria è una vergogna. L'Europa, dice, deve smetterla con l'ipocrisia, smetterla di chiedere ai paesi limitrofi della Siria di lasciare le loro porte aperte mentre chiude le proprie. We ask to other countries, neighboring countries, to open their doors and we close our doors. Capisco allora, aggiunge, la contestazione nei confronti del presidente della Commissione Barroso ieri a Lampedusa. I think this the consequence of the fact that people have the feeling that Europe doesn't do enough to tackle that problem. I can understand that reaction, yes. Dobbiamo rafforzare le nostre politiche migratorie, dice il leader dei Liberal Democratici, anche attraverso l'utilizzo della direttiva sulla protezione temporanea dei rifugiati. È del 2001 e finora non è stata mai applicata. It could be necessary if there is an enormous increase in the flow of Syrian refugees, and then it's necessary to use the temporary protection directive. Insomma, l'Europa faccia un esame di coscienza e batta finalmente un colpo. Ovviamente non solo per la Siria. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. E infine l'Azerbaigian, le elezioni che hanno portato al rinnovo del presidente uscente Ilham Aliyev, a sua volta figlio del presidente, di fatto una dinastia avviata ormai nel 1993, quindi 20 anni fa. Ma su questo punto c'è una distinzione, una presa di posizione tra OSCE e Unione Europea. Infatti, mentre l'OSCE boccia le elezioni perché le definisce per l'eccessivo numero di problemi, appunto, di libertà e di accesso ai seggi, il punto di vista dell'Unione Europea è diversa. Per noi è l'esatto contrario, ha detto l'eurodeputato italiano Arlacchi, che faceva parte della delegazione di controllo dell'Unione Europea. Esiste una differenza di vedute fondamentali rispetto all'intero processo elettorale in Azerbaigian. Intanto il fatto, dunque, il presidente è stato rinnovato per altri 5 anni. Con questo è tutto, ci sentiamo domani a partire dalle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.